Siamo qui, stiamo sempre qui, qui tra voi e il cielo, qui tra voi e il mistero. Da mille anni, da mille notti qui, sulla testa di tutti, di quelli belli e di quelli brutti. Immaginatevi da qui, come vi vediamo piccoli, ma con quegli occhioni grandi. Siamo le stelle del cielo, galleggiamo tra i sogni che spedite quassù. Lavorate di corsa mille cose e poi di colpo vi fermate e poi ci guardate. Con rabbia, con dolcezza ci chiedete, impauriti raccontate vostra solitudine. Noi che guidammo i marinai, i pastori da Gesù, noi che ogni tanto cadiamo giù, ma noi sappiamo solo che siamo le stelle del cielo, noi siamo qua. Siamo tra i sogni che spedite quassù. E i sogni chiusi dentro al cuore, stretti nelle mani, lasciateli andare, perché loro sanno bene cosa fare, sanno pulire il cielo e il mare. Se non saliranno più grandi sogni fino qua, ce ne andremo come le rondini per sempre dalle città. Da, da, da, da, da, da. Siamo le stelle del cielo, noi. E galleggiamo tra i sogni che spedite quassù. Stelle del cielo, noi siamo qua. E nelle notti d'estate ci guardate di più. E se non saliranno più grandi sogni fino qua, ce ne andremo come le rondini per sempre dalle città.